Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Passate le amministrative e passate con un secondo turno, quello di ieri, che ha premiato di fatto l'alleanza PD 5 Stelle. Il governo si ritrova e riprende in mano qualche dossier lasciato indietro, ovviamente anche per ragioni politiche. I decreti sicurezza, modificati ieri, la nota di aggiornamento del DEF, che è la base per la prossima manovra, e poi certamente anche le nuove regole per contrastare il Covid. Nessuna limitazione all'apertura di bar e ristoranti, voce che era circolata nelle scorse ore, ma una stretta sulle mascherine, che saranno obbligatorie anche all'aperto. Ci saranno multe per chi non rispetta questo obbligo. A proposito di numeri, aumentano i ricoveri, sono 200 in più, e i ricoveri in terapia intensiva, altri 20. Il tutto mentre il presidente americano Donald Trump esce dall'ospedale, torna alla Casa Bianca e chiede agli americani di non avere paura del virus. Ah, sembra appianata per il momento la questione campionato, Il ministro Spadafora ha incontrato i vertici del calcio, si va avanti con un po' più di attenzione, ma vedremo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Sono le 6:32 minuti e 12 secondi di martedì 6 ottobre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci qua per questa nuova puntata di 24 Mattino con Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Turli in assistenza in redazione. In redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Iniziamo con le consuete accuse di terrorismo che ci pioveranno addosso anche oggi. Siamo pronti a rintuzzarle, perché non è una questione di terrorismo, è solo una questione di stare un po' attenti per evitare di ricaderci. Perché è meglio non ricaderci. Sentite un po' uno che ne sa, Piero Angela. Ma si posso dire, per favore, mettiti la mascherina. Quelli sono un po' come gli untori. C'è un esempio dell'AIDS. C'è gente che è stata condannata in tribunale perché, sapendo di essere contagioso, comunque ha avuto rapporti con altre persone. È un reato. Non dico mica di mettere in galera così le persone che hanno la mascherina, ma di farla rispettare, questa regola, sì. E così ci pensa anche il governo, varando un nuovo provvedimento che prevede appunto l'obbligo dell'uso della mascherina. Da quel che abbiamo capito, l'arco della giornata ci darà dettagli ulteriori, perché poi il Consiglio dei Ministri si è concluso ieri sera e, come al solito, con quest'uso che non è particolarmente bello, il testo dei provvedimenti non è disponibile da subito, è disponibile un comunicato stampa. Comunque, da quel che abbiamo capito, ci sarà l'obbligo della mascherina. Ovviamente questo obbligo non varrà in luoghi particolarmente isolati, non varrà quando sei in macchina da solo, quando sei in scooter, in bicicletta, quando fai attività sportiva, naturalmente. Però si torna un po' a com'era prima, e c'è anche l'ipotesi di multe. Dice il ministro Boccia, la mascherina, ecco, Piero Angela ha fatto il paragone con il preservativo, il ministro Boccia lo fa con il casco. Ho letto delle mascherine, sono cose di buon senso. La mascherina deve essere concepita oggi un po' come il casco sul motorino, e sicurezza a prescindere. Ora vedremo dal dibattito domani in Parlamento che ritorno ci sarà, ma sono tutte indicazioni, per esempio, che alcune regioni hanno già varato. Intanto la notte ci ha consegnato anche un presidente americano, Donald Trump, che esce dall'ospedale e dice delle frasi: guardate, io lo so che qua all'ascolto è pieno anche di trampiani che dicono che Donald Trump ha sempre ragione. Francamente fa un discorso irresponsabile uscendo dall'ospedale e andando a casa, che è questo: don't let it dominate you, don't be afraid of it, you're gonna beat it, we have the best medical equipment, we non abbiate paura del virus, non abbiate paura del virus, uscite di casa, non lasciate che vi domini. Ma che discorso è? Ma che discorso è? Dai. Vabbè, va bene, va bene. Invece il professor Galli, che di queste cose ne capisce un filino più di Donald Trump, la mette così: è evidente che non si è capito cosa stiamo andando a rischiare. Stiamo andando a rischiare una situazione comparabile per una serie di aspetti a quella di marzo. Vogliamo questo? Vogliamo non lasciarci alle spalle quell'esperienza? Vogliamo vanificare i lunghi giorni di lockdown e tutti i sacrifici connessi? Per andare ad ondeggiare in un locale che con quelle caratteristiche andrebbe chiuso questa sera stessa, voglio dire. Caro Francesco Specchia, editorialista di Libero, Francesco, come stai? Buongiorno. Buongiorno, bene, bene, voi tutto a posto? Sì, senta. Ma sì, tutto sommato sì, va, nessun sintomo. Ci siamo rilassati troppo, Francesco, secondo te? Sì, diciamo ci avevamo preso gusto, c'è questa recrudescenza del virus che pare virtualmente resuscitato, ce lo aspettavamo un po', comunque devo invece, dire che... Scusa Francesco, invece di essere clinicamente morto, clinicamente pare, come disse il professor Zangrillo, ci pare esatto, era nel conto, l'avevamo messo nel novero della fase della nuova ondata, e quindi c'è questo cambio di fase per cui il governo si sta ritardando tutto, secondo me anche giustamente, per cui lo stop ai locali da ballo direi che è sacrosanto, le mascherine obbligatorie all'aperto sono sacrosante, magari lo saranno meno forse i coprifuoco militari, però bisogna fare di tutto per evitare che gli ospedali si riempano di nuovo e soprattutto che le terapie intensive poi si affollino. Quindi tutto questa nuova riorganizzazione con questa formulazione di uno stato di emergenza che probabilmente in questo momento non è così emergente, ma tecnicamente potrebbe esserlo, può aiutare a evitare che lo spirito di marzo non sia solo quello dell'incoscienza, ma sia proprio lo spirito della gente che ha capito e che cerca di rimettersi in riga. Sì, io voglio dire, qua ci sono molti ascoltatori naturalmente che al 349-238-6666 via SMS, messaggi su WhatsApp ci dicono e ci continuano a dire: guarda, state facendo del terrorismo, se guardate bene i numeri è pieno di asintomatici. Allora, in parte quello che dicono è anche vero, però è vero. Che i dati ci consegnano questo, ci consegnano che a ieri ci sono stati 200 ricoveri in più, i ricoveri non avvengono per gli asintomatici, cioè gli asintomatici non vengono ricoverati, usciamo da questo gioco, le persone che vengono ricoverate hanno dei sintomi. In secondo luogo mi permetto di dire questo, noi molte persone basano le loro posizioni sul principio di precauzione, ci sono state mille battaglie anche insensate, devo dire la verità, sugli organismi geneticamente modificati, tanto per fare un esempio, o sul 5G adesso. Ora noi siamo di fronte a una cosa della quale veramente non sappiamo nulla e della quale i medici stanno iniziando a studiare gli effetti a lungo termine o a medio termine, e questi effetti comprendono degli effetti sul sistema cardiovascolare a lungo termine, degli effetti sul sistema neurologico, dei quali non conosciamo ancora i contorni. No, mi sbaglio, Francesco, quindi non è che si sta facendo terrorismo, si sta dicendo: ragazzi, facciamo attenzione, semplicemente, no? No, navighiamo ancora a vista, non abbiamo una chiara idea di quello che può essere. È vero che sono calati anche i ricoveri in terapia intensiva, perché se noi facciamo il paragone col marzo con lo scorso marzo erano 2200 al giorno, adesso siamo ai 300, ma è anche vero che noi abbiamo applicato poi tutte le precauzioni dovute molto più di prima, poi sappiamo come combattere il virus, sappiamo che in alcune zone della Lombardia, per esempio, non si è creato un effetto gregge, ma sicuramente sono aumentati gli anticorpi e quindi la virulenza della malattia è di molto inferiore, però non bisogna mai abbassare la guardia. Prova ne sia che laddove le precauzioni sono, qui mi devo smentire perché pensavo fosse il contrario, per esempio nelle scuole le precauzioni sono state, almeno qui in Lombardia, molto seguite, poi alla fine ci sono solo 2 alunni su 10.000 che sono stati contagiati, speriamo, facciamo le corna ovviamente perché sì, non si sa mai, però vuol dire che se tu poi alla fine le precauzioni le segui, i distanziamenti, le mascherine, tutto quello che dobbiamo fare, alla fine riusciamo a contenerlo il virus, perché la vera battaglia è quella lì, anche da un punto di vista meramente economico. Nella nota di aggiornamento al DEF che è stata presentata si tiene conto di uno scenario avverso che è la peggiore delle ipotesi, con un calo del PIL al 9%, però è anche vero che se noi continuiamo di questo passo riusciamo a recuperare un 6% di punti e dovremo rimetterci lì nel giro di 2 anni, non recuperare come prima, ma insomma dovremo prendere un abbrivio discreto. Gli altri stanno facendo di peggio, sì. Ricordiamoci che in Spagna, in Francia e anche in Germania stanno andando peggio di noi, sì, perché l'hanno presa sotto gamba. Sì, mi scrive un ascoltatore, tra gli altri che dicono ma guardate, state facendo terrorismo, ci scrive un ascoltatore, lavoro anni guarda, dico solo che abbiamo riaperto la rianimazione Covid perché abbiamo superato il limite soglia dei pazienti e positivi sintomatici in ospedale. Grazie per l'informazione che stiamo facendo. Così, signori, andate a sentire quello che succede negli ospedali invece di star là a ragionare sui numeretti, perché poi negli ospedali si verifica effettivamente quello che succede. Dato che Francesco citavi il tema economico e il tema del quadro economico, ieri ha parlato il ministro Gualtieri, soprattutto ieri sera è stata approvata la NADEF. Cos'è la NADEF? La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. E cos'è? È la base macroeconomica e di conti pubblici, di previsione ovviamente, che serve a strutturare la legge di bilancio dell'anno prossimo. Diciamoci che quest'anno sono un po' saltati tutti gli schemi, non solo per il calo del PIL che Gualtieri indica così. Noi avremo naturalmente una caduta del PIL pesante, come era prevista, il 9% è la nostra previsione, che però è migliore di quella che molti istituti, quasi tutti gli istituti quest'estate internazionale avevano previsto, perché è in corso un forte rimbalzo, cioè l'economia, soprattutto la manifattura, in questo terzo trimestre ha fatto molto bene. Il che è un buon segnale. Come dicevo, non è solamente questa la questione, è anche la questione di quanto ci si indebita, quanto deficit si fa. E con un occhio su questo recovery fund, ieri Francesco, il ministro dell'economia ha ribadito l'idea che si parta a gennaio di quest'anno, però le perplessità su come sta andando la trattativa ci sono tutte in Europa. Certo, perché lì ci sono questi due blocchi di paesi che inavvertitamente sono alleati su una cosa completamente opposta, che sono i paesi di Visegrad, che non vogliono mettere la loro firma sulla produzione di documenti, insomma, sull'avvio dell'operazione recovery, perché ritengono che i paesi cosiddetti anseatici, ed è l'altro gruppo, cioè quelli del nord, gli scandinavi, i frugali, così dire, pretendono troppo da loro nell'indicare, nel legare l'allargizione di fondi al rispetto dei diritti civili, che direi che è la base comunque, insomma, di qualsiasi comunità. E quindi se da un lato ci sono quelli di Visegrad che bloccano, dall'altro ci sono i paesi frugali che dicono la stessa cosa, quindi non raggiungendosi l'unanimità nei trattati, questa è una regola che si dovrebbe cambiare, sì, secondo me, non si riesce ad avviare in alcun modo questa pioggia di soldi che dovrebbe caderci dal cielo, 109 miliardi eccetera, che poi sono 82 anche solo di fondi di soldi a fondo perduto. Quindi io non la vedo così facile. Presumibilmente, parlavo con Carlo Cottarelli in un'intervista che abbiamo fatto ieri, arriveranno, tutti cederanno, perché sarebbe uno shock a livello europeo, e il problema grosso poi sarà che cederanno anche quando si tratterà di darci i soldi non strettamente collegati a riforme strutturali, perché in questo momento c'è un bisogno disperato di denaro, sì, e forse poi rispenderemo male, anche sì, perché il PIL si riattiva anche quando pochi sanno che il PIL si riattiva anche quando i soldi li spendi, sì, male, sì, basta che li spendi, basta che li metti, basta che li butti dentro, perché Keynes diceva basta che scavi una buca in qualsiasi momento d'emergenza e che quella buca, sì, produce PIL. Il problema grosso è che dopo due mesi ti si sgonfia tutto come un soufflé, certo, perché non è debito cattivo, capisci? A proposito di conti pubblici, c'è una questione che mette in gioco da una parte le esigenze e le difficoltà degli italiani e delle imprese e dall'altra quelle delle casse dello Stato, ed è la questione delle cartelle esattoriali, perché poi non è passata tra le ipotesi, non è passato tra gli emendamenti, se non vado errato, al decreto agosto, di prorogare oltre il 15 ottobre la scadenza della riscossione delle cartelle. Si parla di 9 milioni di cartelle esattoriali, e che se arrivano di qui a fine anno ovviamente è un problema. Ne parleremo più avanti, alle 8.35 faremo il punto col sottosegretario Baretta, con la presidente di Confesercenti. Intanto il ministro Gualtieri dice ci andremo cauti. Noi facciamo un'altra cosa, noi abbiamo detto all'Agenzia delle Entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità, quindi non ci sarà, ma semplicemente, ovviamente, anche perché parliamo di, diciamo così, debiti verso il fisco precedenti, che non c'entro niente col coronavirus, di cose di anni precedenti, e che naturalmente è giusto che tutti i contribuenti saldino, ma naturalmente avendo il tempo necessario, e quindi ci sarà la necessaria gradualità, quindi nessuna così tragedia epocale come viene annunciata, ma una normale ripresa graduale di un'attività di riscossione che è fisiologica e che esiste in tutti i paesi. Cosa voglia dire la necessaria gradualità a fronte di una riscossione? Non è chiarissimo, comunque traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Tra l'altro, se temete la cartella esattoriale di qui a fine anno, raccontateci la vostra, dateci un'idea anche della vostra condizione, la condizione aziendale o personale, se vi va, che poi ne parliamo alle 8.35. Torniamo su questo nord-ovest piagato dal maltempo, dalle alluvioni, dal dissesto idrogeologico. Ieri si è acceso un po' di scontro tra il ministro dell'Ambiente Costa, che tra l'altro è stato nostro ospite ieri, come sapete, il quale ha detto che sono pronti 7 miliardi per il dissesto, per contrastare il dissesto, ovviamente non per il dissesto. E lo stesso Costa ha detto a volte i comuni non hanno le strutture, le capacità necessarie per spendere questi soldi. Piccata risposta del presidente dell'ANCI: non scarichi le responsabilità sui comuni. Intanto si contano altri due morti. Si contano danni enormi, di nuovo ponti crollati, e viene anche da chiedersi tutte quelle verifiche che erano state promesse post crollo del Morandi dove sono finite. Intanto siamo con Michele De Pascale, che è insieme sindaco di Ravenna ma è anche presidente dell'Unione delle Province Italiane. De Pascale, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua, è quasi in doppia veste stamattina. E cosa c'è di vero in quello che dice Costa? Ma diciamo purtroppo c'è, cioè, poco, nel senso che il problema è un problema molto serio e diciamo per me in generale in queste circostanze anche lo scaricabarile, fra virgolette, da parte di un'istituzione rispetto a un'altra rischia di produrre scarsi risultati. La verità è che diciamo da tempo, come ANCI ma anche come UPI, denunciamo il fatto che le risorse per la manutenzione dei ponti e dei viadotti sono totalmente insufficienti. Stiamo parlando, parlo solo delle province, di 30.000 fra ponti e viadotti in Italia, molti costruiti nell'immediato dopoguerra, e un fabbisogno che oggi sarebbe di circa 6 miliardi, quello per mettere a norma tutte le infrastrutture esistenti. E che reggano, De Pascale, anche ad un'alluvione. Assolutamente, assolutamente, che diciamo, reggano a qualsiasi condizione meteorologica o anche legata o sismica, fra virgolette, perché poi questo è un paese che ha pagato negli ultimi anni dei prezzi molto pesanti anche legato ai terremoti. Noi, diciamo, devo dire che con il ministro De Micheli in questi anni abbiamo studiato delle procedure di finanziamento immediato, quindi appena le risorse vengono stanziate vengono immediatamente trasferite alle province, ai comuni, noi siamo pronti a questa sfida, però ripeto, non ha senso. Adesso io penso alle province, prima non servivano, sì. Poi non potevano assumere e adesso hanno la colpa del fatto che i ponti hanno dei problemi, mi sembra un po' eccessivo. L'unica cosa vera, che diciamo, cercando di cogliere il buono, è proprio questa, cioè spesso noi abbiamo infrastrutture molto importanti anche in comuni molto piccoli e noi, come in Unione delle Province, abbiamo sempre sostenuto che il ruolo delle province è fondamentale, perché sennò si rischia di lasciare da soli piccoli comuni che a volte è vero che non hanno le dotazioni minime per poter affrontare. Mi scusi Pasquale, ma il monitoraggio di questi ponti, della situazione, della condizione nella quale sono, c'è? Perché il tema è un po' questo, dire: se io in una giornata di pioggia particolarmente intensa passo sopra quel viadotto sul quale passo tutti i giorni, posso star tranquillo oppure no? Allora, è chiaro che adesso purtroppo l'episodio, quello che ha dato più scalpore, era, diciamo, di un'infrastruttura di competenza di ANAS, dello Stato, quindi lì bisogna verificare, diciamo, i tipi di studi e di verifiche che erano state fatte da ANAS, anche perché, diciamo, se ci sono dei problemi il ponte va comunque chiuso o limitato nella sua, diciamo, che nella carica, nella portata che ha. Io parlo della mia esperienza, sì. Diciamo, io guido due enti, come diceva lei, un comune e una provincia. Noi abbiamo, diciamo, uno storico molto forte di prove di carico, di controlli. Proprio in questi giorni abbiamo fatto una decina di prove di carico su delle infrastrutture, quindi gli strumenti ci sono per fare i controlli. Poi, ripeto, è chiaro che al di là di tutto quello che importa è metterli a posto, perché sì. Spesso queste infrastrutture non hanno alternative in termini di connessione di portare in questo territorio. Questo è il grande tema, De Pasquale. Senta, quello che voglio capire è questo, perché il ragionamento che ha fatto il ministro Costa è questo. Dice: non è che è colpa dei comuni o è colpa delle province, semplicemente che a volte non hanno proprio le strutture per poter progettare e portare a termine un progetto in una maniera decente. C'è un problema di questo tipo? Allora, io mi sento di poter dire che di risorse che sono ferme, soprattutto in opere medio-piccole, quelle di cui stiamo parlando, non stiamo parlando del Ponte Morandi, molto spesso stiamo parlando di piccoli ponti, interventi da 2-3 milioni di euro, io mi sento di poter dire che escludo che ci sia una diffusione di casi dove i soldi sono stati stanziati e il ponte non viene fatto. E peraltro, ripeto, detto dopo un episodio tragico, ma in un'infrastruttura gestita dallo Stato, suona anche un po', ripeto, nessuno vuole fare la caccia alle streghe, però crolla un ponte dello Stato, il governo dice è colpa dei piccoli comuni. Mi sembra che sia un po' paradossale. Però, detto questo, io direi, partiamo da un punto: servono 6 miliardi e bisogna capire se questi 6 miliardi sono una priorità del paese o non sono una priorità del paese, perché in questi anni abbiamo finanziato 80 euro, reddito di cittadinanza, quota 100, cioè di risorse ne sono state stanziate tante. E qui ci sono 6 miliardi di lavoro da fare per mettere in sicurezza l'Italia. Peraltro, questi 6 miliardi, dice lei, 6 miliardi solo per i ponti, dice lei, e chiudiamo, De Pasquale, mi dica un sì o un no, se ho capito bene, no? Sì, esattamente. Sì, esattamente. Grazie Michele De Pasquale, presidente dell'UPI, sindaco di Ravenna, grazie Francesco Specchi, editorialista di Libero, GR24. Ci risentiamo tra un attimo con la rassegna stampa. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.